Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, purtroppo ci risiamo a doverci abituare a questi suoni brutti, non i suoni del concerto di Ariana Grande, ma l'esplosione che c'è stata durante il suo concerto, o meglio alla fine a Manchester. E che poi ieri sera, quando c'è la notizia, sembrava quasi che non fosse un attentato. C'era chi diceva: ma forse scoppi qualche palloncino a gas e la gente che uscendo si è travolta ed è morta. Sembrava una specie di Beastalizer. Invece, purtroppo, come dicono le agenzie, come Radio 24 sta informando questa mattina, la polizia ha confermato: c'è stato un kamikaze, quella parola, insomma, un attentatore suicida. 22 morti accertati. Purtroppo, Oscar, temo che alcuni anche giovani, giovanissimi, perché è il concerto di una pop star americana, Ariana Grande, 60 feriti, e ci risiamo, insomma, a parlare di un attentato terroristico che colpisce una città europea. Sì, dopo quello poco tempo fa a Westminster, che però aveva un bilancio molto più contenuto, ci fa tornare agli anni in cui c'erano stati gli attentati alla metropolitana a Londra, ci fa chiaramente capire che vedremo poi meglio chi, come, quando e se si tratta di un dormiente, di un non dormiente, di un matto, di uno squilibrato che aderisce al franchising. Però detto questo, si colpisce un tipo di manifestazione che classicamente vede masse concentrate e forse, questo lo capiremo meglio, controlli meno accurati di quanto non avvenga per altri tipi di manifestazioni di massa, perché i controlli negli stadi dovrebbero essere elevati, chissà nel caso di questo concerto, però le vittime ci sono. Ovviamente al momento non è che abbiamo altri aggiornamenti, nel senso che la BBC, come possiamo sentire da ore, da ieri sera, è in continua breaking news. Qualora ci fossero notizie come quella, appunto, poco fa battuta dalle agenzie dell'attentatore suicida, conferma della polizia, ve le daremo. Anche purtroppo anche l'eventuale aggiornamento di numero di morti, sono 22 accertati, ma diversi feriti. E non lo so, Oscar, se ci aiuta il santo di oggi. Ma non credo in questi casi. Chi crede tutto fa brodo, però insomma, diciamo che qui dipende molto dalla follia degli uomini più che da ciò che può fare chi sta dall'altra parte. Comunque oggi è San Desiderio di Lang, che era originario di Genova e poi invece compie la sua vita e il suo apostolato nella Gallia, ed è uno dei santi cefalofori. Chi sono i cefalofori? Non sono dei pesci, ma sono quelli che nel martirologio si ricorda essere stati decapitati, e quindi sono martiri, e poi per miracolo aver ripreso la testa, che gli era stata spiccata dal corpo, e testa sotto mano rientrati nelle città o nella loro sede di vescovo, e quindi San Desiderio è uno di questi. Tra le cose da ricordare oggi, tanto per non dimenticare che cosa abbiamo alle spalle, un bel rogo, il rogo su cui venne arso Girolamo Savonarola nel 1498, domenicano ostile ai medici, predicatore del orrende fine del mondo che avrebbero colpito la Chiesa e gli uomini politici della sua Firenze e di tutta Italia, e che alla fine Alessandro VI Borgia pensò bene di scomunicare e far mettere il rogo. La strage di Falcone, che è già strage di Capaci, con la morte di Falcone, di Francesca Morvillo e tre agenti di scorta, che hai già ricordato, nel 1992, sono 25 anni. E per alleggerire un pochino, ti ricordo che nel 2007 dovresti ricordare che cosa avveniva in questo giorno del 2007, perché in questo giorno del 2007 c'era una partita ad Atene in cui il Liverpool veniva battuto 2-1 dal Milan, che vinceva la Coppa dei Campioni. Diciamo sono che passati è stata 10 anni fa. Una piccola rivincita dopo la disfatta di Istanbul, piccola, una straordinaria rivincita. Ecco, però insomma, la Coppa dei Campioni 10 anni fa, ricordiamolo. Quest'anno è toccata la Juve vincere. Oggi è la giornata mondiale della politica, perché la giornata mondiale in realtà della tartaruga della politica italiana, dire. E quindi la tartaruga è la velocità più o meno con cui avvengono tutti i processi in Italia. Lasciami dire che io do solidarietà a Campo Dall'Orto, pur non avendo particolarmente capito in che cosa sia consistita la sua direzione generale della RAI, ma come si vede, chi l'ha messo e chi aveva promesso di liberare la RAI dai partiti ha fatto una legge di riforma che non ha affatto liberato la RAI dai partiti, ma l'ha solo servita al governo. Sto parlando di Matteo Renzi, ovviamente, e oggi sono gli stessi che lo cacciano. La RAI è più di prima nelle mani solo dei partiti, hanno messo il canone in bolletta turlupinandovi, perché il canone in bolletta è solo la greppia più ampia dei partiti e del governo, non è servizio pubblico. Chi volesse vedere un servizio pubblico trova sui siti dei giornali britannici una durissima intervista fatta dalla BBC a Theresa May, la premier, cioè l'Independent ieri che la lanciava, la trovate ancora sul suo sito, le 5 domande a cui il premier britannico non risponde alla BBC. Ecco, paragonatela alle interviste che vedete ai presidenti del Consiglio sulla RAI e capite che cos'è un servizio pubblico che vale la pena del canone, magari anche in bolletta, lì però ti offrono opting out in Gran Bretagna, e invece che cosa viene spacciato indegnamente dai signori dei partiti come servizio pubblico in Italia. Sono duro? Sì, sono duro. No, ma devo dire che tra l'altro la vicenda di Campo Dall'Orto secondo me proprio intercetta l'interesse dei cittadini, perché capiscono che nella RAI c'è qualcosa di politico. Qualcosa. Ma la vicenda in sé, insomma, i vertici di un'azienda, anche se è un'azienda pubblica, eccetera, che siano sulle prime pagine dei giornali, le vicissitudini di un direttore generale, secondo me magari viene poco capito, ecco, dal cittadino. Ma perché medico, come al solito viene poco capito, ma giustamente, perché in realtà è un'atmosfera da maschere e pugnali, cortigiani medievali, ex democristiani portaborse di partitini democristiani che mettono l'amichetto democristiano al posto di questo. È inutile che raccontiamo una storia di alta e nobile confronto sui programmi del servizio pubblico, perché non è così. E in più, di fondo, come sappiamo, l'attacco durissimo di Ansaldi per conto di Renzi, perché hanno mandato in onda interviste e programmi che lesa maestà all'ex presidente del Consiglio. Ma infatti oggi Repubblica racconta, per esempio, che per un anno Campo Dall'Orto e Renzi si sono visti tutte le settimane e poi negli ultimi mesi non si sentono neanche. Pensa su questo si misura la produttività e il servizio pubblico, su quante volte si sentono e si vedono. Che buffonata. Allora, noi ovviamente, tenendo sullo sfondo quello che è successo a Manchester, ve lo ricorderemo, ricordiamo 22 vittime accertate per questo attentato kamikaze. A questo punto si può parlare di questo, lo dice la polizia britannica al concerto di Ariana Grande, pop star americana. Però oggi vorremmo parlare del tema dei vaccini dopo il decreto legge che è stato approvato dal governo, che prevede alcune cose, tra queste l'obbligo per chi va alle scuole materne dell'infanzia di vaccinare. Se uno non ha neanche le vaccinazioni obbligatorie, non può iscrivere i bambini in questo caso. Se lo fa alle scuole elementari viene segnalato. C'è anche in estrema ratio la valutazione del togliere la patria potestà. Prima ci sono le sanzioni, ovviamente. Prima ci sono le sanzioni. Proprio per evitare che solo con le sanzioni ci fosse un rischio che ovviamente chi aveva più reddito potesse fregarsene e chi no, a quel punto c'è anche l'ipotesi di segnalare alle ASL e poi al Tribunale dei Minori, esatto, per valutare. Valutare l'estrema ratio. Ecco. Insomma, è un qualcosa, il tema, che come sempre divide e divide in Italia. Noi abbiamo Melita Cavallo, che salutiamo, ex presidente del Tribunale dei Minori di Roma. Buongiorno, magistrato, e grazie di essere con noi. Buongiorno Cavallo. A tutti. Salutiamo anche Mattia Marchi, che è referente di Corvelva, penso di averlo come acronimo pronunciato bene. Comunque è il coordinamento regionale Veneto per la libertà delle vaccinazioni. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, Marchi. Buongiorno. Voi che cosa volete? In sintesi, cioè, e che cosa pensate che sia un provvedimento duro, sbagliato? Beh, innanzitutto volevo ringraziarvi, io vi seguo sempre, sono due amici grandissimi. Poi in realtà la situazione attuale ci sta portando a combattere una partita di, è come se fosse una partita di calcio, ci vogliono infilare in una fazione o nell'altra, quando non è così. Noi abbiamo visto, noi siamo veneti, qui in Veneto c'era la libertà vaccinale fino all'altro giorno e non c'erano particolari epidemie, c'era una percentuale che era sopra, una percentuale della copertura vaccinale sopra a molte altre regioni che avevano alcuni obblighi. E ci vediamo arrivare questa nuova decreto legge, ma neanche ci viene fatto degli spot in televisione dal ministro Lorenzin senza vedere le carte, senza poter leggere veramente di cosa tratta, perché non sarebbe la prima volta che il ministro Lorenzin fa un programma televisivo e dopo non... È un decreto del governo, no? Vale per tutta l'Italia. Sì, decreto del governo, oggettivamente purtroppo tutto quanto è collegato. Se si dice che questo governo e questo Stato tengono alla salute dei cittadini, è veramente ridicolo. L'altro giorno io cercavo di capire che cosa fosse veramente un decreto ministeriale. Sono andato a vedermi la decadenza dei 60 giorni, come funziona, come non funziona, deve essere approvato. E ho visto che gli ultimi decreti che erano decaduti nel governo Renzi, perché non erano stati discussi in Parlamento, erano quelli sulla terra dei fuochi. Stiamo entrando, scusi, in un ambito. No, ma rimaniamo sul punto. Ecco, punto dei vaccini è sempre la stessa cosa: non è di per sé il vaccino, di per sé è lo Stato che impone in maniera coercitiva la vaccinazione di massa, dove esempi come il Veneto, che avevano la libertà vaccinale. Aveva una copertura. Quindi non vi piace lo strumento impositivo? Ma non è neanche lo strumento impositivo. Proprio il sistema coercitivo di dire io Stato impongo a te perché tu non sei capace di pensare, di informarti. Oppure per una questione di salute pubblica. Ma salute pubblica, se il Veneto era il 93.7%, cioè in linea con la media nazionale, un decreto del governo vale per tutta l'Italia, non è che si può fare per il Veneto o escludere il Veneto o farlo per il Veneto appositamente, insomma, se è stato fatto evidentemente ci sono invece delle coperture molto molto più basse in alcune regioni, per esempio in Toscana, Oscar, mi risulta c'è esserci una situazione difficile dal punto di vista di possibili epidemie e quindi insomma il decreto va fatto per tutto lo Stato, no? Non è che però insomma non piace questo strumento coercitivo. Comunque, qui come si vede non c'è un ragionamento su nuovi vaccini, è tutto finto, sul metodo qui utilizzato è un ragionamento di tipo libertario, cioè qual è il confine oltre il quale lo Stato deve, in nome della tutela del diritto collettivo alla sanità pubblica, cioè al fatto di non avere i propri figli contagiati da altri non vaccinati, ecco il confine tra questa, la tutela di questo diritto e la tutela del diritto individuale delle famiglie di libera scelta su cosa vaccinare i propri figli. È un confine che in questo caso diventa un problema, come vedi, di filosofia del diritto, come devo dire, un problema di libertà. Che distinguerei nettamente da chi dice questo è un orrendo complotto dell'industria farmaceutica, di cui i giornalisti sono, per così dire, i viziosi strumenti farci avvelenare con le dosi. Io ricevo lettere che dicono le dosi dell'esavalente non sono affatto tarate per i miei bimbi e lei è un complice di assassinio. Io mi chiedo veramente dove leggiate queste cose, forse è meglio che leggiate cose scritte da immunologi e così via, ecco, perché veramente sono un po' colpito da alcune lettere che ho ricevuto. Sì, però diciamo l'impostazione, se volete, dal punto di vista delle leggi, del diritto, il diritto individuale, ecco, il diritto alla salute collettiva, non so, Melita Cavallo su questo ci può aiutare a chiarire dove deve essere messo questo confine, dottoressa Cavallo. Laddove il rischio per un bambino non vaccinato diventa altissimo. Io penso che le vaccinazioni obbligatorie, poliomielite, difterite, tetano ed epatite B, sono effettivamente importanti, perché io che sono anziana ho visto tanti bambini della mia età, perché io sono stata vaccinata alla poliomielite che avevo 12-13 anni, e bambini che sono, diciamo, nonostante le molteplici operazioni sono rimasti zoppi, sono rimasti così. Così per il tetano, ho visto una bambina durante il mio lavoro morire per tetano perché non era stata vaccinata, quindi voglio dire che queste rese obbligatorie sono davvero, diciamo, rispettano il diritto costituzionale alla salute dei bambini. Non ledono, però, non ledono il diritto. Questo, certo. Che non significa che noi possiamo prendere un bambino non vaccinato, che si vuole iscrivere alla scuola dell'infanzia, e portarlo di forza a farlo vaccinare. Quindi significa solo che dobbiamo cercare di comunicare, di informare approfonditamente questi genitori per far loro capire il rischio che è importante, perché questo è il punto fondamentale, perché grandissimi paesi europei, la Germania, il Regno Unito, non hanno regime di obbligo vaccinali, e però le coperture sono altissime, perché l'opinione pubblica, il dibattito pubblico, la consapevolezza diffusissima, oltre il 93-95% dei casi, esclude l'idea che sia giusto non vaccinare. Però ci diceva Melita Cavallo, Mattia Marchi ci dice che in Veneto, dove c'è la libertà, la copertura è molto alta, quindi c'è una consapevolezza. Allora si chiede, non è un ledere la mia libertà di scegliere di non vaccinare, impormelo? La responsabilità, viene richiamato il genitore alla responsabilità, perché non può mettere a rischio la salute del suo bambino. Quindi dobbiamo fare una campagna di informazione corretta da parte di sanitari competenti nella materia. Non si può leggere sul web di tutto e di più, di chi scrive, senza avere competenze. Però la patria, la potestà genitoriale tolta in estrema razio, ovviamente, in modo non automatico, davvero secondo lei si potrà arrivare a casi del genere? In casi estremi sì. Se per esempio questo bambino, perché se c'è una certificazione medica che ci dice che questo bambino non può essere sottoposto a vaccinazione, non c'è nessuno che possa obbligarlo. Ma se questo bambino non ha alcun problema, la vaccinazione obbligatoria io credo sia un diritto del bambino, e che i suoi genitori non glielo possono negare. Non glielo possono negare. Insomma, ha sentito Mattia Marchi. Tra l'altro, sa cos'è il problema? Che in Italia forse ci sono un po' troppi, io dico la parola, ciarlatani che spacciano notizie false sulla questione dei vaccini. E quindi forse il problema è quello. Si vuole reagire anche a una... Secondo me qual è uno dei grossi problemi, le dico come esperienza personale nell'iter che ha portato me ad avere un aspetto critico, ma critico, preoccupato per mio figlio. Se dovesse capitare domani che ci fosse un'epidemia reale di polio o di una malattia, sarei io il primo a correre a vaccinare me stesso e la mia famiglia. Il problema è che si sta facendo, secondo me non si leggono i numeri, non voi, in generale la copertura attuale in Italia è del 95% senza coercitività. Si sta facendo una legge, uno Stato sta facendo una legge dove non c'è un'epidemia. Allora, la meningite, l'Istituto Superiore di Sanità, è corsa ai ripari comunicando a tutti quanti: signori, attenzione, lo trovate sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, la meningite è solo un'epidemia mediatica. Il ministro Lorenzin dice che ci sono due tipi di epidemie, quella della meningite e quella del morbillo. Però guardi, anche l'Istituto Superiore di Sanità, il professor Ricciardi, dice che i dati, invece i numeri, dicono che c'è un aumento. Assolutamente. Non dica che l'Istituto Superiore di Sanità dice una cosa che, assolutamente, come dichiarazione sui giornali, dice il contrario. È la molla, la capacità di uno Stato di reagire a un'epidemia. Facciamo finta che domani scoppia una malattia. Oggi ci sono, il bollettino settimanale dicono che ci sono 21 casi in Italia di morbillo, siamo nella curva finale. Adesso fanno una legge. Alla fine dell'epidemia fanno una legge. Siamo capaci ad avere uno Stato che riesce in maniera veloce ad attuare una politica immediata sul problema? C'è un problema, risolviamolo. No, lo risolviamo alla fine della curva. Che ci sia stato un problema rilevante, che deriva anche qui dalle competenze regionali rispetto a quelle nazionali, rispetto a come è articolato il nostro sistema sanitario, eccetera eccetera, e non solo a questo, perché come si è capito, anzi come colpa dell'informazione, si è messo a battere il petto, come non si è capito neanche oggi, ma fino alla sera prima del decreto legge c'è stato un confronto durissimo all'interno del governo e ha vinto il ministro Fedeli. Ancora oggi non abbiamo capito perché l'impostazione iniziale del ministro Lorenzin, esatto, è stata bocciata ed è passato il vincolo solo fino a 0-6 anni, però a testimonianza che quello che dice il nostro ascoltatore, Beh, ha un fondamento, perché stiamo parlando di questo tema da 2 anni prima di arrivare a produrre questa misura. E tra l'altro, ovviamente, se leggete oggi i giornali, tutti i pediatri, tutti i medici dicono: ma è una situazione impossibile da risolvere praticamente da qui a adesso abbiamo scoperto che, siccome col decreto tutti devono andare i non vaccinati, non c'è la possibilità di assolvere la possibilità per tutti. Tra l'altro, dobbiamo andare in pubblicità. Purtroppo, guarda, un triste aggiornamento: le vittime sono vittime, Oscar, però la polizia dice che ci sono anche i bambini probabilmente tra le vittime. Questo era temibile, perché al concerto di Ariana Grande il tipo di pubblico è questo. Vi daremo qualche aggiornamento, magari rientriamo tra un attimo dopo la pubblicità. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, siamo alle 8:44 minuti. Caro Oscar, sentiamo gli ascoltatori. Ovviamente il tema è quello dei vaccini, anche se la vicenda di Manchester è lì sullo sfondo. Giovanni da Roma, buongiorno Giovanni. Salve Milan, buongiorno. Io sono un pediatra di famiglia della provincia di Roma. Sì. Ci sarebbero molte cose da dire al signor Marchi. Con il signor Marchi potremmo fare proprio un lungo dialogo e credo che sarebbe costruttivo per entrambi. Ma andiamo al punto. Io seguo circa 900 bambini. Proprio in questi giorni ho fatto una revisione dei bambini vaccinati. Solo 2 dei miei bambini, dei bambini che io seguo, non sono per nulla vaccinati, 15 hanno un quadro vaccinale parziale. Io riesco a ottenere questo che ritengo un buon risultato in termini di copertura vaccinale con quello che si chiama il dialogo, la comunicazione, e cercando di presentare ad ogni genitore quella che è la documentazione scientifica per confrontarci. Ma se non ci fosse l'obbligo nelle vaccinazioni, molti dei miei colleghi non potrebbero ottenere questa, come dire, una percentuale così alta, perché purtroppo il tema della comunicazione, dell'adozione della documentazione scientifica spesso, come dire, presenta delle difficoltà di tempo, delle difficoltà relative anche alla conoscenza dei singoli genitori e a tutta una serie di condizioni che purtroppo nella quotidianità rendono più difficile riuscire a dialogare e a portare i genitori su quella che è, così come dire, una procedura corretta nei confronti della Però la conoscenza è accertato ovunque che più si è istruiti e più c'è una tendenza a non vaccinare, cioè quelli che non vaccinano sono quelli più istruiti, non le categorie meno istruite. Sì, però parlavo di conoscenza specifica sulla materia, non di livello culturale generale. E insomma, comunque Giovanni ci pone questa questione, lui lo fa, come ci ha detto Melita Cavallo, con un rapporto quotidiano con i genitori di informazione. Io aggiungo che in queste settimane sono stato anche raggiunto da lettere di medici, in un caso pediatra, altri medici, che hanno detto: io ho dei dubbi su alcuni tipi di vaccini per bambini per l'età in cui vengono prescritti, ho dei dubbi alla letteratura scientifica, ho dei dubbi. E mi trovo in una condizione di non poterle esporre, perché altrimenti qui qualche collega poi ne approfitta, e oramai, siccome sta diventando più agevole la radiazione, io non voglio incorrere in problemi professionali. Però le segnalo, mi creda che io non sono un antivaccinista, si figuri se non credo nella scienza, però c'è anche chi ha qualche dubbio e non è più oggi nella condizione di manifestarlo. Io lo dico perché in questo caso, dico: guardi, sono la persona sbagliata per mandare questa lettera. Mi rendo semplicemente conto però che è diventato un problema diviso in due, e non mi piace, perché io credo che affidarsi alle risultanze della scienza dovrebbe comportare automaticamente evitare ogni atmosfera da ordalia che sembra improvvisamente diventato da qualche anno a questa parte del nostro paese. Quindi c'è evidentemente qualcosa che non funziona nel nostro meccanismo di approccio a temi come questi, perché le lettere, ripeto, pensano che sia una specie di imposizione culturale. Però è interessante, perché il punto è appunto il dialogo, l'informazione, e Melita Cavallo invece si è posto anche un accento sull'aspetto proprio legale, cioè quando si arriva a fare decreti, norme, leggi, non siamo già in una fase in cui evidentemente i buoi sono scappati dalla stalla, cioè la situazione è già un po'... Ma queste sono l'ipotesi di, come dire, di una segnalazione al Tribunale per i minorenni, è un'ipotesi molto remota, io spero, che vengano convinti o comunque il medico possa fare una certificazione per cui questo bambino va e sente in quanto c'è un problema familiare, non lo so, c'è una documentazione che attesta la impossibilità per il bambino di essere sottoposto. Io penso che possa arrivare piuttosto al tribunale per i minorenni il conflitto tra due genitori anche, in corso di separazione, certo. Per cui uno la pensa in un modo e l'altro in un altro, come spesso avviene. E in questo caso che si fa? E che si fa in questo caso? Beh, in questo caso io credo che in linea di massima, a meno che non sia certificata la impossibilità per questo bambino di accedere alla somministrazione del vaccino, verrà sosteso il genitore che nega il vaccino e la responsabilità genitoriale, diciamo, va a confluire esclusivamente sul genitore che diciamo ritiene di sottoporre il bambino al vaccino. Beh, questo è già un effetto di questo decreto molto pratico, capito Oscar? In caso di conflitto tra genitori, in base a questo decreto prevale, come dire, la potestà. Cioè non è che può prescindere appunto da, anche da in quel decreto. Caso da quello che dice l'immunologia e così via. C'è Massimo che ci chiama da Udine, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Grazie per avermi fatto intervenire. Lei, grazie. No, io volevo solo far presente la mia situazione, la mia esperienza, ma in modo cronologico, nel senso io ho 51 anni. Sì. Allora io ho dei rapporti fotografici che attestano che io ho avuto sia il morbillo che la rosolia, e anzi in queste foto risulta chiaro che io sono rimasto infettato insieme anche a mia sorella che ha 3 anni più di me. Questo vuol dire che i miei genitori quella volta, infatti le fotografie servivano come attestazione, ma cercavano proprio di farmi prendere queste malattie, perché questo qua presupponeva che io sarei stato immune, autoimmunizzato. Sì, allora, siccome il morbillo adesso viene individuato come un'epidemia che sembra possa fare stragi, io posso pensare che i miei genitori quella volta lì abbiano cercato addirittura Però stiamo parlando di 50 anni fa. Ho capito. Capisci, però il tempo evolve. B, casi per quanto limitati di conseguenze gravi del morbillo su bambini piccoli ci sono, e come sono documentate, e quindi bisogna contenerle anche quelle. No, poi i casi personali, Oscar, poi, lo so, però guarda, non hai idea quante lettere. Io ho persone che mi dicono: mio figlio è stato leso in maniera irrimediabile, dopodiché a quel punto il mio dovere di giornalista è dire: mi fa vedere i documenti, cioè, no, ma guardi che allora ci sono anche le opinioni. È chiaro. A Mattia Marchi dobbiamo fare questa domanda, perché sulle agenzie era uscita che un responsabile del vostro coordinamento regionale avrebbe detto in una trasmissione radiofonica, ma so che adesso smentirà, non è vero, dicendo però facciamoli a una smentire, donna incinta, dicendo: piuttosto che portare il mio figlio all'obbligo di vaccinazione, abortirò. E il responsabile della vostra, diciamo, coordinamento avrebbe detto: sì, fate così, andate all'estero, magari non abortite, ma andate all'estero piuttosto che piegarsi a questo obbligo vaccinale. Non è successo, voglio sperare, Mattia. No, purtroppo è sempre la solita, cioè una giornalista in Veneto soprattutto che è particolarmente avversa all'argomento e non vede l'ora di storpiare, perché è sempre lei. Quando vedete un articolo di quella giornalista specifica, vabbè, adesso ce l'ha con voi, ce l'ha con voi. No, ce l'hai col tema. Voi iscriverete i bambini o no? Cioè, invitate a iscrivere i bambini o no? Ma i bambini devono essere, i nostri sono iscritti a scuola. No, certo. Il figlio è iscritto. Ed è anche vaccinato, mi risulta. Lei ci ha fatto sapere che è vaccinato. Mio figlio è vaccinato? È vaccinato. Ma il problema, ad esempio, anche del tribunale, voi sapete come funziona in Italia? Cioè, se si vuole solamente la salute, se si entra nel ciclo dei tribunali, prima che venga fatta una sentenza per cui il bambino deve essere vaccinato in maniera coercitiva, passano 7-8 anni. Secondo voi veramente lo fanno per la salute? No, e per cosa lo fa? Per cosa lo fanno allora? No, ma è perché la politica non riesce a mettersi d'accordo e strappa i pezzettini di una legge. E questo sì. E fanno un agglomerato, fanno una legge che è un agglomerato di noi, neanche interessi. Voler dire l'ultima parola. Però vabbè, uno e l'altro partito. Secondo lei non ci sono alcuni genitori che si rivolgono a voi che per via di questo decreto non porteranno i bambini a scuola? Ci sarà qualcuno, ci sarà un sacco di persone che non andranno a scuola. Ecco. Ci saranno un sacco di persone, ma non che si rivolgono a noi. che non porteranno i bambini. L'homeschooling sta avendo grosso riscontro, okay, con tutte le difficoltà, perché ne abbiamo parlato anche noi. Cioè l'homeschooling come risposta, così non li porta a scuola, con l'homeschooling così non si può, è una ghettizzazione. Io mio figlio lo decido l'homeschooling come cultura, non lo decido perché non lo voglio vaccinare, ma è questo qui il problema. Si cerca sempre di portarci a una piccola nicchia. Noi il 3 giugno, i genitori di tutta Italia saremo a Firenze, Roma e Catania. Non siamo pochi, perché purtroppo scontenta anche chi vuole vaccinare. Non siete pochi, no, effettivamente sono anche molto mobilitate. Un'anima libertaria, però. Sì. Non è un'anima antiscientifica. No, infatti, tra l'altro ci dice il suo figlio è vaccinato, per esempio. Va bene, ringraziamo Mattia Marchi, coordinamento regionale Veneto per la libertà delle vaccinazioni, e Melita Cavallo. Gli aggiornamenti ovviamente su Manchester ci sono adesso in giornale radio, 22 morti, caro Oscar. Ci ritroviamo a... Io adesso vado a leggere questa bella pagina Italia Oggi su il Nude Parade per la legalizzazione. Una settimana di mobilitazione per le leggi delle regioni sui nudisti, caro mio. Nudisti. Altro che la carta. Questo è sui nudisti, sì, naturalisti. Piemonte ed Emilia Romagna hanno già legiferato in proposito, quando si dice le vere priorità pubbliche. Va bene, a domani.